momento in cui gli italiani sono non solo disillusi, ma, se mi consente un termine forte, incazzati con la politica, noi abbiamo deciso di riportare tutto indietro al 93, quando gli italiani avevano cancellato il finanziamento pubblico, che poi è stato reintrodotto come rimborsi elettorali. E quindi abbiamo chiesto ai cittadini se confermavano, e io sono convinto che confermeranno, che i partiti devono fare un taglio davvero, davvero molto forte, per noi radicale, di tutti i soldi che prendono. Iniziamo la raccolta il 13 di ottobre e contiamo di depositare le firme, per rimanere nei tempi che la legge ci prescrive, nei primi giorni del prossimo anno. Ma l'abbiamo abbinato anche ad un altro referendum, poiché sentiamo parlare di rimborsi, di soldi ai deputati e ai consigli regionali, abbiamo abbinato il primo con un secondo referendum, quello che taglia le diarie ai parlamentari, e quindi a cascata poi le taglierà necessariamente anche ai consiglieri regionali.